Italia in controluce. Buongiorno alla seconda edizione di Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nella cronaca italiana, tra i casi di Nera e di giudiziaria, le curiosità, il costume, lo spettacolo e la cultura. Buongiorno da Daniele Biacchessi. E vabbè, ci risiamo. Arriva novembre, tempo delle piogge, il territorio italiano si sbriciola un po' ovunque. Morti, feriti, migliaia di sfollati in Toscana, in Veneto, fiumi esondati in Lombardia. Vi riproponiamo oggi il reportage di Anna Migliorati sulle frane in casa. Non per dire che noi di Italia in controluce l'avevamo detto, che l'avevamo scritto. Come lo sapevamo noi, lo sapevano anche le autorità competenti, ma hanno fatto tutto il possibile per evitare le sciagure. C'è un'Italia che scivola sempre più in basso, giù, sempre più giù, granello dopo granello. È l'Italia che frana, destinata a sgretolarsi e scomparire, che l'uomo lo voglia o meno. Ed è da un viaggio nell'Italia delle frane che i geologi italiani lanciano il loro appello. Attenzione, è un terremoto silenzioso. Eugenio Di Loreto è presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio. I fenomeni che sono molto frequenti, cioè ogni anno quando ci sono la stagione delle piogge si succedono gli eventi frenosi, quindi uno tende a non rendersene conto. È un po' come l'incidente automobilistico e magari l'incidente aereo in cui muoiono tutti insieme molte persone. Fa molto più notizia la morte di 300 persone insieme, come che ne so, nel caso del terremoto dell'Aquila, che non alla fine le vittime sono le stesse, ma sono diluite nel tempo. Quindi è solo per questo motivo che uno non si rende conto della gravità del fenomeno. Voi avete preparato un rapporto che si chiama Le frane in casa. Quanti sono gli italiani ad avere una frana in casa? Quasi tutti, il 10% del territorio è quello proprio a elevata criticità, e poi l'80% dei comuni ci sono delle aree ad alto rischio di frane e alluvioni. Facendo una sorta di viaggio in Italia, di mappa dei rischi. Le zone più difficili sono quelle dove affiorano questi terreni che sono di natura argillosa, quindi la Calabria, il Molise, tra il Molise, la Campania, la Puglia e poi anche la Sicilia, terreni che sono già nati da frane. Un costo sociale di morti e vittime e un pesante costo economico, 1 miliardo di euro solo negli ultimi 2 anni, esclusi gli eventi eccezionali. Monte Acuto, Scaletta Zanclea, nel passato Sarno, tragedie sotto gli occhi di tutti, mentre altre più silenziose consumano ogni giorno il territorio. Triste primato va alla Calabria. In un tour virtuale ci accompagna un altro geologo, Francesco Violo. Ci sono state molte altre frane negli ultimi 2 inverni in Calabria che hanno creato sicuramente più danni rispetto alla frana di Maierato. Ovviamente Maierato ormai è diventato il simbolo di questi ultimi 2 inverni veramente, diciamo, drammatici in Calabria, insomma. Parliamo di 500 frane? Se andiamo a contare anche i fenomeni più piccoli, che però spesso creano comunque danni alle abitazioni, alle strade, possiamo addirittura parlare di oltre 1000. Sono solo fattori climatici ad aver condizionato gli ultimi 2 inverni? No, ovviamente il fattore climatico ha avuto un peso rilevante. Ovviamente c'è tutto, diciamo, il contorno, nel senso che la Calabria negli ultimi decenni le montagne, le colline sono state abbandonate, l'agricoltura, diciamo, rurale delle povera, delle colline e delle montagne è stata abbandonata, la popolazione si è riversata verso le zone costiere, andando, diciamo, a invadere anche i corsi d'acqua, andando a costruire, a urbanizzare aree che invece andrebbero lasciate libere. Quali sono le zone più a rischio? Ma la Calabria ha il 100% dei comuni a rischio, cioè tutti i comuni della Calabria hanno almeno una zona a rischio. Come siamo a soldi? Qualcosa si sta muovendo, nel senso che è partita una prima fase del piano di difesa del suolo, in cui sono previsti previsto un finanziamento di 170 milioni di euro per 220 interventi di messa in sicurezza delle situazioni, diciamo, più urgenti e puntuali. Però abbiamo già la certezza che il prossimo inverno noi lo passeremo ancora con tutte queste criticità, perché voglio ricordare che ancora in Calabria ci sono decine e decine di strade ancora interrotte, famiglie evacuate. Non non c'è poi solo l'abusivismo. Ci sono anche altrove paesi con destini già segnati, aggrappati ai pendii solo per la tenacia resistenza dei loro abitanti. Sono stati costruiti su terreni naturalmente franosi e già oltre 100 anni fa, nel 1908, un decreto ne decise il trasferimento ad altra sede. 323 paesi da spostare, fu decretato nell'Italia Regia. Oggi molti di quei centri sono ancora lì, alcuni sono piccoli gioielli con un destino segnato. Uno di questi è in Lazio, Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. È la città che muore. Tra chi cerca di salvarla, l'ingegner Alvaro Baffo. Il degrado di Civita di Bagnoregio inizia nel 1695. Nei primi anni del Novecento viene fatto un decreto di evacuare l'abitato. Ci sono alcuni che se ne vanno, altri che continuano a resistere, fino a che oggi possiamo contare 7-8 famiglie di veri civitonici che ancora sono là dentro. E noi negli anni 80 abbiamo iniziato a studiare per salvare dal mare incurabile Civita, un cantiere che non si vede perché noi lavoriamo dall'interno e che è visitato da tutte le comunità scientifiche del mondo, da tutte le università. Quante sono le città in Italia che si sgretolano come Civita di Bagnoregio? Ormai diciamo diverse centinaia. Con la vostra tecnica potrebbero essere salvate? Possono essere tutte interamente salvate. Ci servono delle risorse che non siano dei mega risorse. Con il monitoraggio che abbiamo, con gli studi fatti, siamo in grado ormai di capire quando è il momento in cui può succedere qualcosa. E questo anche con delle piccole risorse si può intervenire. Abbiamo avuto anche la soddisfazione di dire che gli interventi, piccoli interventi finanziati dai fondi dell'Unione, sono stati presi come esempio di intervento per tutta l'Europa. È l'Italia che scivola sempre più giù. Le frane in casa non fanno paura come un terremoto, ma in silenzio spesso fanno molte più vittime e danni. Italia in controluce. Cosa spinge dei professionisti affermati a partire per Haiti e lavorare testa bassa al servizio della popolazione colpita dal terremoto? Il reportage di Ambra Notari. Gennaio 2010, Haiti. Una ragazza sta seduta sul letto, in mano un bicchiere d'acqua. In un attimo il blackout, la terra le inghiotte. Un terremoto del 7° grado della scala Richter inghiotte con lei altri 4 milioni di persone, più di 250.000 le vittime. 10 mesi dopo, le ferite di Haiti sono ancora aperte, forse ancora più profonde. Nuove catastrofi ambientali e malattie, in questi giorni un'epidemia di colera ha già fatto più di 300 vittime, continuano a flagellare lo Stato caraibico. Gli aiuti internazionali hanno subito affollato i vicoli tra le macerie di Port-au-Prince, la capitale, e tanti tra medici, architetti, falegnami parlano italiano. Risponde presente anche l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano. Il presidente Luigi Martino, già molto malato, scomparso pochi giorni dopo il sisma, chiede ai colleghi di intervenire. Nasce così Milano per Haiti, per la realizzazione del reparto di fisioterapia e applicazione protesi della Casa dei Piccoli Angeli a Port-au-Prince. Il tutto sotto l'ala della Fondazione Francesca Rava, da anni attiva sul territorio. Vittorio Alfieri, giovane commercialista meneghina, ha fatto suo il messaggio del presidente. Il progetto è nato su impulso del nostro presidente Luigi Martino, perché ha visto la disgrazia che era accaduta e, amando molti bambini, ci ha suggerito di avviare questo progetto di raccolta dei fondi. È stato uno dei progetti partiti subito perché la situazione era abbastanza urgente. I bambini avevano bisogno urgente delle protesi e dell'applicazione. Vittorio oggi sta per raggiungere Haiti. Non mi spaventa il colera. Mi spaventa meno il colera della reazione emotiva che posso avere vedendo la situazione. Ci arriverà anche la macchina che costruirà le protesi in loco. Con noi, i bambini comunque hanno bisogno di protesi sempre nuove, per cui sono riusciti con l'organizzazione ad avere la macchina che costruisce le protesi in loco. Per lei è la prima volta ad Haiti, ma conosce i volti e le voci degli haitiani grazie alle immagini della Fondazione Rava. Secondo me finché non si è lì non si riesce a capire, manca l'impatto emotivo e quindi la tragedia da un lato, ma dall'altro, avendo anche già conosciuto Padre Rick e alcune persone che hanno assistito fin dall'inizio la popolazione, troverò la speranza. Su questo sono sicura. E non so se hai visto il sorriso di quei bambini, per cui per me solo uno di quelli vale la forza di continuare, perché nonostante tutto quei bambini ti sorridono. Gli occhi di questi bambini ti danno l'impulso per continuare. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Radio24.it è il luogo di internet dove potete ascoltare e scaricare tutti i programmi andati in onda su Radio 24. Per comunicare con noi, Radio 24 Italia in Controluce, il gruppo su Facebook, in Controluce quello su Twitter, la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani puntuale 6:30 Radio 24. Con altre storie.